Un piacere evidente si irradiò dagli occhi azzurri che incontrarono i suoi, e la radiosità parve illuminare tutto il suo futuro di un mite sole. La felicità ideale, del genere noto nelle mille e una notte, in cui si è invitati ad allontanarsi dalla fatica e dal frastuono della strada e ad entrare in un paradiso dove tutto vi viene dato e nulla chiesto. Sembrava una faccenda che comportava un'attesa di alcune settimane, più o meno. Perché dovremmo rimandarlo? Egli disse con ardente insistenza. Ormai ho preso la casa. Tutte le altre cose possono essere pronte fra poco, no? Non vi preoccuperete dei nuovi vestiti, quelli si possono comprare dopo. Che idee originali avete, voi uomini intelligenti, fece Rosamond, ridendo più sonoramente del solito e mostrando le fossette a questa comica incongruenza. Questa è la prima volta che sento parlare di un corredo comprato dopo il matrimonio. Ma non vorrete dire che insisterete a farmi aspettare dei mesi per amore dei vestiti? Chiese Lydgate, per metà pensando che Rosamond lo stesse tormentando con grazia e per metà temendo che davvero rifuggisse da un frettoloso matrimonio. Ricordate che aspettiamo con ansia un genere di felicità migliore di questa. Stare continuamente assieme, essere indipendenti dagli altri e dare alla nostra vita l'ordine che ci pare. Andiamo, cara, ditemi fra quanto potrete essere del tutto mia. Era un tono di seria implorazione nelle parole di Lydgate, come se sentisse che lei gli avrebbe dato un torto con un rinvio eccessivo. Anche Rosamond si fece seria e leggermente meditabonda. In effetti si stava dibattendo fra molte complessità di urli di pizzo, maglierie e risvolti di sottovesti, al fine di dare una risposta che fosse almeno approssimativa. 6 settimane sarebbero più che sufficienti, ammettetelo, Rosamond, insistette Lydgate, lasciandole le mani per cingerla dolcemente col braccio. Improvvisamente si lisciò i capelli con la sua piccola mano mentre piegava il collo in modo meditativo e quindi disse seria: Ci sarebbero da preparare la biancheria e i mobili. Comunque, potrebbe occuparsene la mamma mentre noi siamo via. Sì, certamente, dovremmo starvi una settimana o giù di lì. Oh, di più! Disse Rosamond con aria grave. Stava pensando ai suoi vestiti da sera per la visita da Sir Godwin Lydgate, dove da tempo sperava segretamente di trascorrere in modo delizioso almeno un quarto della luna di miele, anche se in questo modo avrebbe dovuto rimandare la sua presentazione allo zio, che era professore di teologia, anch'essa un genere di posizione sociale piacevole, seppure sobria, se sostenuta dalla nobiltà del sangue. Guardò l'innamorato con una certa stupida aria di protesta mentre parlava, ed egli fu pronto a capire che lei poteva desiderare di allungare il dolce tempo della solitudine in due. Quello che volete, mia cara, quando sarà fissato il giorno, ma prendiamo una linea di condotta decisa e mettiamo fine a qualsiasi afflizione che state soffrendo. 6 settimane. Sono certo che sarebbero più che sufficienti. Potrei certamente affrettare i preparativi, disse Rosamond. Allora, ne parlerete al babbo? Penso che sarebbe meglio scrivergli. Arrossì e lo guardò. Come ci guardano i fiori del giardino quando procediamo felici fra di essi nella trascendente luce serale. Non c'è un'anima inesprimibile, metà ninfa, metà bambino, in quei petali delicati che brillano e alitano attorno al centro di colore intenso. Egli le toccò l'orecchio e una parte del collo sotto di esso con le labbra, ed essi sedettero assolutamente immobili per molti minuti, che scivolarono via davanti a loro come un ruscelletto gorgogliante baciato dal sole. Rosamond pensava che nessuna poteva essere più innamorata di lei, e Lydgate pensava che dopo tutti i suoi errori folli e la credulità assurda, aveva trovato la perfetta femminilità. Gli pareva quasi di sentire addosso il respiro dello squisito affetto matrimoniale, quale gli sarebbe stato concesso da una creatura raffinata che venerava le sue elevate riflessioni e le sue grandi fatiche. E non sarebbe mai stata di ostacolo ad essi, che avrebbe creato ordine nella casa e nella contabilità con una magia ferma, eppure avrebbe tenuto le dita pronte a suonare il liuto e a trasformare la vita in un'avventura romantica in ogni momento. Che era stata istruita a rispettare il vero limite della femminilità e a non oltrepassarlo di un capello, docile quindi e pronta a eseguire gli ordini che le giungevano da oltre quel limite. Adesso era palese più che mai che la sua idea di restare scapolo molto a lungo era stata sbagliata. Il matrimonio non sarebbe stato un impedimento, ma un aiuto. E il giorno successivo, accompagnando per caso un paziente a Bressing, vide un servizio da tavola che gli diede l'impressione così precisa di essere proprio quello giusto che lo comprò immediatamente. Si risparmia tempo a fare queste cose proprio nel momento in cui ci si pensa, e Lydgate detestava il vasellame brutto. Il servizio da tavola in questione era costoso, ma quello poteva essere un aspetto dei servizi da tavola. L'arredamento era necessariamente costoso, ma a pensarci lo si doveva comprare solo una volta. Deve essere stupendo, disse Mrs. Vincey quando Lydgate le accennò dell'acquisto con qualche tocco descrittivo. Proprio quello che Rosie dovrebbe avere. Preghiamo Dio che non lo rompano. Uno deve assumere dei servitori che non rompano le cose, disse Lydgate. Certo, questo era un modo di ragionare con una visione imperfetta delle sequenze. Ma a quel tempo non c'era alcun genere di ragionamento che non fosse più o meno approvato dagli uomini di scienza. Naturalmente era superfluo le mandare di mettere al corrente di ogni cosa la mamma, la quale di rado intratteneva opinioni che non fossero ottimiste, ed essendo a sua volta una moglie felice, non si sentiva altro che orgogliosa per il matrimonio della figlia. Ma Rosamond aveva buoni motivi per suggerire a Lydgate di rivolgersi al padre per iscritto. Preparò la strada all'arrivo della lettera, recandosi al magazzino col babbo il mattino seguente e dicendogli cammin facendo che Mr. Lydgate desiderava sposarsi presto. Stupidaggini, mia cara, disse Mr. Vincey, che cos'ha per potersi sposare? Faresti molto meglio a troncare il fidanzamento. Te l'ho detto molto chiaramente prima d'ora. A che scopo hai avuto una tale istruzione se devi andare a sposare un povero? È uno spettacolo crudele per un padre. Mr. Lydgate non è un povero padre. Ha comprato la clientela di Mr. Peacock, che come dicono vale 8-900 sterline l'anno. Idiozie e stupidaggini. Che cosa significa comprare una clientela? Tanto varrebbe che comprasse le rondini dell'anno prossimo. Gli sfuggirà tutto fra le dita. Al contrario, padre, aumenterà la clientela. Guardate come è stato chiamato a casa dei Chatham e dei Casabo. Spero che sappia che non gli darò niente con questa delusione che mi ha dato Fred e il Parlamento che sta per essere sciolto e gente che fa a pezzi le macchine da ogni parte, le elezioni che si avvicinano. Caro padre, cosa può avere a che fare questo col mio matrimonio? Un bel po', direi. Può darsi che andiamo tutti in rovina per quello che ne so, il paese è in questo stato. Certuni dicono che è la fine del mondo e che io sia impiccato se non penso che ci siano tutte le premesse. Ad ogni modo, questo per me non è il momento di tirar fuori i soldi dalla mia azienda e desidererei che Lydgate lo sapesse. Sono certa che non si aspetta nulla, padre, e ha dei parenti così altolocati. Si farà certamente strada in un modo o nell'altro, è impegnato a fare delle scoperte scientifiche. Mr. Vincey non rispose nulla. Non posso rinunciare alla mia unica prospettiva di felicità, padre. Mr. Lydgate è un gentiluomo. Non potrei mai amare nessuno che non fosse un perfetto gentiluomo. Non sareste contento che mi ammalassi di consunzione come Arabella Hawley? E sapete che non ho mai cambiato idea. Di nuovo, il padre non disse nulla. Padre, promettetemi che consentirete a ciò che desideriamo. Non rinunceremo mai l'una all'altra e sapete che siete sempre stato contrario a lunghi corteggiamenti e a matrimoni tardivi. Rosamond insistette ancora un po' su questo tono finché Mr. Vincey non disse: Bene, bene, bambina, innanzitutto deve scrivermi prima che gli possa rispondere. E Rosamond fu certa di averlo convinto. La risposta di Mr. Vincey consisteva soprattutto nella richiesta che Lydgate contraesse un'assicurazione sulla vita, richiesta immediatamente esaudita. Era un'idea deliziosamente rassicurante nel caso che Lydgate morisse, ma nel frattempo non economicamente sicura. Tuttavia, essa parve rendere tutto sereno per il matrimonio di Rosamond e gli acquisti necessari proseguirono con grande energia. Non senza considerazioni di prudenza, tuttavia. Una sposa che andrà a visitare un baronetto deve avere qualche fazzoletto da tasca di prima qualità, ma oltre alla mezza dozzina assolutamente necessaria, Rosamond si accontentò di rinunciare a quelli con i ricami della miglior qualità e con il pizzo Valenciennes. Anche Lydgate, rendendosi conto che la sua somma di 800 sterline si era considerevolmente assottigliata da quando era arrivato a Middlemarch, rinunciò all'acquisto di alcuni pezzi di argenteria di modello antico che gli furono mostrati quando entrò nel negozio di Keeble e Bressing per comprare la posateria. Era troppo orgoglioso per comportarsi come se fosse sottinteso che Mr. Vincey avrebbe anticipato dei soldi per fornirsi dei mobili. E sebbene, dal momento che non sarebbe stato necessario pagare tutto in contanti, alcuni conti sarebbero stati lasciati da pagare. Non perse tempo a congetturare quanto gli avrebbero dato il suocero sotto forma di dote per facilitare i pagamenti. Non avevo intenzione di fare nulla di dispendioso, ma le cose necessarie dovevano essere comprate e sarebbe stata un'economia sbagliata comprarle di qualità scadente. Tutte queste cose erano di secondaria importanza. Lydgate prevedeva che la scienza e la sua professione erano gli unici fini che avrebbe dovuto perseguire con entusiasmo, ma non riusciva a immaginarsi mentre li perseguiva in una casa come quella di Ivrench. Le porte tutte aperte, la tovaglia di incerata consunta, i bambini con i grembiulini sudici, i resti del pranzo sotto forma di ossi, coltelli dall'impugnatura annerita e disegni stilizzati alla cinese. Ma Vrench aveva una disgraziata moglie linfatica che si aggirava per la casa come una mummia avvolta in un ampio scialle e tutto sommato doveva aver cominciato con un'attrezzatura domestica scelta male. Rosamond, tuttavia, era per parte sua molto presa da congetture, sebbene la sua pronta intuitività la sconsigliasse da rivelarle in modo troppo brutale. Mi piacerà tanto conoscere la vostra famiglia, disse un giorno, quando si stava discutendo del viaggio di nozze. Forse potremmo andare in una direzione che ci consentisse di andarla a trovare sulla via del ritorno. Quale zio vi è più simpatico? Oh, mio zio Godwin, credo, è un vecchio bonario. Siete stato sempre a Quallingham, a casa vostra, quando eravate un ragazzino, non è vero? Mi piacerebbe tanto vedere quel vecchio luogo e tutte le cose a cui eravate abituato. Sa che state per sposarvi? No, disse Lydgate con noncuranza, girandosi nella poltrona e tirandosi sui capelli. Ma dovete informarlo, cattivo nipote disubbidiente. Forse vi chiederà di portarmi a Quallingham e allora potreste portarmi in giro per il parco e io potrei immaginarvi là quando eravate bambino. Ricordate che voi mi vedete in casa mia esattamente com'era fin da quando ero piccola. Non è giusto che io non conosca la vostra, ma forse vi vergognereste un po' di me, me ne dimenticavo. Lydgate le sorrise con tenerezza e accolse davvero il suggerimento che l'orgoglioso piacere di mostrare una sposa così incantevole valeva qualche seccatura. E adesso che ci pensava, gli sarebbe piaciuto vedere i vecchi luoghi assieme a Rosamond. Gli scriverò allora, ma i miei cugini sono noiosi. Parve stupendo a Rosamond poter parlare in modo così sprezzante della famiglia di un baronetto e la prospettiva di poterla giudicare con disprezzo per suo conto la rese assai felice. Ma la madre fu sul punto di rovinare tutto un giorno o due dopo, dicendo: Spero che vostro zio Sir Godwin non guarderà rosi dall'alto in basso, Mr. Lydgate. Io penserei che potrebbe farvi un regalo generoso. 1.000 o 2.000 sterline non devono essere niente per un baronetto. Madre! Esclamò Rosamond arrossendo violentemente. E Lydgate provò una tale compassione per lei che non rispose nulla e si spostò verso l'altra estremità della stanza per osservare con curiosità una stampa, come se fosse distratto. La mamma in seguito ebbe una piccola ramanzina filiale e fu docile come sempre. Ma Rosamond rifletté che se qualcuno di quei cugini di alto lignaggio che erano noiosi fosse stato indotto a visitare Middlemarch, avrebbe visto molte cose nella famiglia di lei che avrebbero potuto scandalizzarlo. Perciò sembrava desiderabile che Lydgate, entro poco tempo, si procurasse un posto eminente da una qualche altra parte, e ciò non poteva certamente essere difficile per uno che aveva uno zio titolato e poteva fare delle scoperte. Lydgate, capite? Aveva parlato con gran fervore a Rosamond delle sue speranze sui scopi più alti della propria vita e aveva trovato delizioso essere ascoltato da una creatura che gli avrebbe portato il dolce aiuto dell'affetto appagatore, della bellezza, della tranquillità, quell'aiuto che i nostri pensieri traggono dal cielo estivo e dai campi circondati di fiori. Lydgate contava molto sulla differenza psicologica esistente fra quelli che per amor di varietà chiamerò oca e papero, in particolar modo sull'innata remissività dell'oca in quanto stupendamente in armonia con la forza del papero. Capitolo 37. Il dubbio a cui alludeva Mr. Vincey, se fossero solo le elezioni generali o la fine del mondo ad approssimarsi, ora che Giorgio IV era morto, il Parlamento sciolto, Wellington e Peel generalmente denigrati e il nuovo re pieno di scuse, era un piccolo esempio delle incertezze dell'opinione pubblica provinciale a quel tempo. Al fioco barlume, simile a quello della lucciola che illuminava la provincia, Come potevano gli uomini rendersi conto di quali fossero i propri pensieri nella confusione di un ministero Tory che emanava delle misure liberali, di nobili e di elettori Tory desiderosi di eleggere dei liberali piuttosto che gli amici dei ministri rinnegati, e di proteste per rimedi che sembravano avere un influsso misteriosamente remoto sugli interessi privati ed erano resi sospetti dall'appoggio di vicini sgraditi. Coloro che compravano i giornali di Middlemarch si trovavano in una posizione anomala. Durante le agitazioni per la questione cattolica, molti avevano desertato il Pioneer, che recava un motto di Charles James Fox ed era l'avanguardia del progresso, perché aveva sostenuto Peel nella questione papista e aveva in tal modo macchiato il suo liberalismo con la tolleranza verso i gesuiti e Baal. Ma costoro divennero insoddisfatti del Trumpet, che dal tempo dei suoi squilli contro Roma e nella generale fiacchezza dell'opinione pubblica, giacché nessuno sapeva quali sarebbero stati i sostenitori e chi i sostenuti, si era indebolito nei suoi squilli. Era un periodo, secondo un notevole articolo del Pioneer, in cui i bisogni urgenti del paese potevano bene neutralizzare una riluttanza a prendere delle misure di interesse pubblico da parte di uomini le cui menti avevano acquisito, da una lunga esperienza, non solo ampiezza di vedute, ma anche concentrazione, fermezza di opinioni, tolleranza, imparzialità ed energia. In effetti, tutte quelle qualità che nella malinconica esperienza del genere umano sono state le meno disposte a coabitare. Mr. Akbat, la cui parlata scorrevole a quel tempo scorreva in modo più abbondante del solito, lasciando molta incertezza su dove sarebbe andata infine a sfociare, fu sentito dire nell'ufficio di Mr. Hawley che l'articolo in questione scaturiva da Brooke di Tipton e che Brooke aveva comprato segretamente il Pioneer alcuni mesi prima. Questo significa guai, eh? Disse Mr. Hawley. Gli è venuto il ghiribizzo di fare l'uomo del popolo adesso, dopo aver ciondolato in giro come una tartaruga smarrita. Tanto peggio per lui. Lo tengo d'occhio da un po' di tempo. Lo tartasseremo come si deve. È un proprietario terriero maledettamente incapace. Che utilità ha un vecchio uomo di provincia a venire a ingraziarsi un gruppo miserabile di liberi cittadini con la giubba blu scuro? Quanto al suo giornale, spero solo che sia lui a scriverlo. Varrebbe la pena che lo pagassimo. Mi par di capire che ha un giovanotto assai brillante che lo dirige e che può scrivere degli articoli di fondo nello stile migliore, del tutto all'altezza dei giornali londinesi. E intende prendere una posizione assai estrema sulla riforma. Che Brooke riformi i suoi affitti, è un maledetto vecchio avaro, gli edifici di tutti i suoi possedimenti stanno andando in rovina. Suppongo che questo sia un qualche giovane disperato di Londra. Si chiama Ladislav, si dice che sia di origine straniera. Conosco il tipo, disse Mr. Hawley. Un qualche emissario. Comincerà con l'ostentare i diritti dell'uomo e finirà con l'assassinare una ragazza. È nel loro stile. Dovete concedere che ci sono degli abusi, Ale, disse Mr. Akbat, prevedendo qualche disaccordo politico col suo avvocato di famiglia. Io non sarei mai in favore di opinioni estremiste, infatti mi schiererò con Atkinson. Ma non posso non prendere in considerazione che la mancanza di rappresentanza di grosse città, al diavolo le grosse città! Esclamò Mr. Hawley, sordo alle spiegazioni. Ne so un po' troppo sulle elezioni di Middlemarch. Lasciate che domani sopprimano ogni piccola circoscrizione e introducano ogni città in rapida espansione del regno. Aumenteranno solo le spese per entrare in Parlamento. Mi baso sui fatti. Il disgusto provato da Mr. Hawley all'idea che il Pioneer fosse diretto da un emissario e che Brooke entrasse attivamente in politica come se una tartaruga delle attività discontinue allungasse ambiziosamente la testa e divenisse aggressiva, non era pari all'irritazione provata da alcuni membri della famiglia stessa di Mr. Brooke. La cosa era trapelata gradualmente, come la scoperta che un vostro vicino ha avviato la produzione di qualcosa di sgradevole e vi resterà in permanenza sotto il naso, senza che possiate avere una riparazione legale. Il Pioneer era stato segretamente comprato ancora prima dell'arrivo di Will Ladislav, quando l'occasione favorevole si era offerta sotto forma della disponibilità del proprietario a separarsi da una proprietà preziosa che però non rendeva. E nell'intervallo di tempo trascorso, dopo che Mr. Brooke ebbe scritto il suo invito, quelle idee embrionali di far sentire il proprio parere al mondo in generale che erano state presenti in lui fin dagli anni della prima giovinezza, ma che fino ad allora erano rimaste bloccate, erano germogliate segretamente. Lo sviluppo fu assai favorito da un entusiasmo per il proprio ospite, che si rivelò maggiore anche di quanto aveva previsto, perché sembrava che Will fosse non solo pratico di tutti quegli argomenti artistici e letterari di cui Mr. Brooke un tempo si era interessato, ma che fosse eccezionalmente pronto ad afferrare i punti importanti della situazione politica e occuparsene con quello spirito liberale che, con l'ausilio di un'adeguata memoria, si presta a citazioni e a una generale efficacia di trattamento. Mi sembra una specie di Shelley, capite? Colse l'occasione di dire Mr. Brooke a gratificazione di Mr. Casabo. Non intendo alludere a nulla di spiacevole, rilassatezza dei costumi o ateismo o alcuna cosa di quel genere, capite? Sono sicuro che i sentimenti di Ladislav siano buoni sotto ogni punto di vista. In effetti abbiamo parlato un sacco ieri sera, ma ha lo stesso genere di entusiasmo per la libertà, l'indipendenza e l'emancipazione. Una bella cosa sotto una guida, capite? Penso che riuscirò a metterlo sulla strada buona e sono ancora più contento perché è un vostro parente, Kesabo. Se la strada buona sottintendeva qualcosa di più preciso del resto del discorso di Mr. Brooke, Mr. Casabo sperava che si riferisse a una qualche occupazione notevolmente distante da Lowick. Aveva detestato mentre lo aiutava, ma aveva cominciato a detestarlo ancora di più ora che aveva rifiutato il suo aiuto. Ecco cosa ci accade quando nella nostra natura c'è una gelosia inquieta. Se le nostre disposizioni sono principalmente di tipo furtivo, è probabile che il nostro cugino Tuttomiele, del quale abbiamo gravi ragioni per trovare da ridire, nutra un segreto disprezzo per noi, e chiunque lo ammira esprima una critica indiretta su noi stessi. Con lo scrupolo della rettitudine dell'animo siamo al di sopra della meschinità di fargli del male. Preferiamo soddisfare tutto ciò che rivendica da noi con benefici attivi ed emettere un assegno per lui in quanto un atto di superiorità che egli deve riconoscere dà alla nostra amarezza un sapore più sopportabile. Ora, Mr. Casabo era stato privato di quella superiorità in quanto qualcosa di più di un simile ricordo, in modo improvviso e capriccioso. La sua antipatia nei riguardi di Will non nasceva dalla comune gelosia di un marito consumato dalla vecchiaia, era qualcosa di più profondo, alimentato dalle pretese, dalle delusioni di una vita intera. Ma Dorotea, ora che lei era presente, Dorotea, in quanto giovane moglie, che a sua volta aveva mostrato offensive capacità critiche, necessariamente consentiva al disagio, in precedenza vago, di concentrarsi. Will Ladislav, per parte sua, si rendeva conto che la propria avversione fioriva a spese della gratitudine ed ebbe un gran discorrere in cuor suo per giustificare l'avversione. Casabo lo odiava. Questo lo sapeva molto bene. Nel fare il suo ingresso la prima volta poté scorgere un'amarezza dipinta sulla bocca e un veleno nello sguardo che quasi avrebbero giustificato un'apertura di ostilità a dispetto dei benefici ricevuti in passato. Era molto obbligato a Casabo per il passato, ma in realtà il fatto che avesse preso quella moglie controbilanciava quell'obbligo. Si trattava di sapere se la gratitudine per ciò che viene fatto per sé non dovrebbe cedere il posto all'indignazione per ciò che viene fatto contro un altro. E Casabo aveva fatto un torto a Dorotea sposandola. Un uomo ha il dovere di conoscersi un po' meglio, e se preferiva ingrigire masticando ossi in una caverna, non aveva il diritto di attirare una ragazza a fargli compagnia. È il più orribile sacrificio di una vergine, disse Will. E descrivevi i dolori intimi di Dorotea come se stesse descrivendo un lamento corale. Ma non l'avrebbe mai persa di vista, avrebbe vegliato su di lei, anche se avesse dovuto lasciar perdere qualsiasi altra cosa nella vita. Avrebbe vegliato su di lei e lei avrebbe saputo di avere uno schiavo su questa terra. Will possedeva, per usare l'espressione di Sir Thomas Browne, un'appassionata prodigalità nell'esporre le cose sia a se stesso che agli altri. La pura verità era che nulla allora lo attirava con tanta forza quanto la presenza di Dorotea.